che va via lontano, nel suo cuore un ricordo più amaro, al sapore di cose lasciate della sua gioventù. Non restare sul ponte un minuto di più, lascia un po' dei tuoi giorni laggiù, ma portavi qualcosa di me per sempre via con te. Marisol, Marisol, il Brasile poi tanto lontano. Marisol, Marisol, c'è una stella che splende vicino, che porta via la mia malinconia, che ti riporta verso casa mia. Io ti aspetto di più innamorato con la mia fantasia. Marisol, Marisol, ti ricordi le sere d'amore? Marisol, Marisol, io ti aspetto, non dirmi di no. Che ci lascia fuori, le parole son preda di un tempo che non avremo più. No, non voglio pensare un minuto di più, devo vivere adesso mai più. Ma se un giorno tornassi da me, ci sarò io con te. Marisol, Brasile poi tanto lontano. Marisol, Marisol, c'è una stella che splende vicino, che porta via la mia malinconia, che ti riporta verso casa mia. Io ti aspetto di più innamorato con la mia fantasia. Marisol, lei ritroverò.